Giuseppe, io ti direi una cosa, un altro metro il tubo lo dovresti allungare. Gianni, tu lo sai che io ti rispetto, vero? Pierpa, tu lo sai, vero, che io lo rispetto a Gianni? Sì, Gianni, è barabazzami, è sempre barabazzami, ma comunque, tutto sommato, guarda, io lo conosco Gianni, diciamo che va tutto bene, insomma, però, come me, bastardo dentro, anche io avrei sollevato un altro metro, perché sono bastardo dentro e fuori. K di positivo, aspetta, chiedo anche conferma a Pacchetto. Pacchetto, avanti, avanti. Hai visto, ti vogliono bene, Giuseppe. Ma tu se lo vuoi far esaurire? Loro, Pacchetto, non è che mi vogliono bene a me. Mi vogliono più che bene, perché figurati, mi vogliono vedere di nuovo fare Tarzan su quel tetto. Ma guarda, per me si può anche marcire adesso l'antenna lì su, che proprio non me ne ha putti nulla. Fatica, Giuseppe, ci mancherebbe altro, arrampicarti di nuovo, Iuia, riprendi già. Sì, perché, ma se tu dovevi vedere a Giuseppe arrampicato con l'antenna, con la scala, in mezzo alle tegole, una cosa allucinante. Dopo si è attaccato all'antenna e ha cominciato a ballare. Ma mi dovevi ammali. Ma che? Allora sai, quando ero su, figurati che ho messo un piede sulla prima staffa dei tiranti, no? Quindi dal tetto ero già a quasi 2,50 metri buoni sopra il livello delle tegole. Ma già sono rischi, sono rischi, andateci cautivi. Kappa, però l'importante era guardare sempre in alto, e da poi era giudito, ti telefono no, io non cedo per primo. Sara. Giuseppe. Avanti, Vela. Mi ricordo il pezzo quando hai detto, cazzo, adesso prendo la mazzetta, spacco tutto. Dove la mazzetta? Io so che adesso spacco tutto. Cazzo, da giù mi combattendo, ti trisci, non mi ha pigliato niente, ma com'è, là, se Mosè. Dopo mi faccio pensare, cazzo, noi la pigliamo sicuro. No, guarda, lì in quel momento proprio ero più che incazzato, ero demoralizzato, perché dopo averla trattata meglio di un figlio, cioè fai tutto il lavoro fatto bene, con tutte le cose, addirittura ho portato su anche lo straccio per appoggiarla, no? Niente, se mi fai quello scherzo lì, io t'ammazzo. Anche non sai, non basta niente per andare a fare quel cotoletto, bisogna andare a Titi. Lo so, Pierpa, però renditi conto che lì domani mattina, mentre fresca, in mezz'ora abbiamo risolto tutto. Beh, infatti, è bello tutto quello che finisce bene. Se non altro, diciamo che hai fatto anche un'esperienza, visto che non l'avevi mai usato, hai fatto un'esperienza anche con l'accordatore. Così hai visto anche la sua funzione, che cosa serve, dai. Che lui, un'antenna te la fa andare bene lo stesso, anche se l'antenna non va bene. Hai fatto anche quell'esperienza, invece, anche contento da una parte. Kappa di positivo, Pierpa, è contentissimo, perché sono esperienze che si fanno ed esperienze che rimangono, oltretutto, perché ti ripeto, usare anche apparecchi nuovi così, mi ha aiutato la sera, non lo posso negare, perché sennò per quanto riguarda la testardaggine che ho io, avrei tenuto gli apparati spenti. L'unica cosa che non avrei mai creduto è fare lezioni di volo in una giornata e mezzo, tutto lì. molto bello. Lo so, infatti adesso mentre il modulo lo guardano, ah, guarda, ed un amico questo cosettino qui, che tu non hai un'idea, ma quanto cazzo non lo potevo vedere quando sono saliti a 1:30, cazzo giù di te, io sono gomoscio. Dai, senta che sono corridendo. Vabbè, lo so, Giuseppe, è così perché diciamo che ho visto altra gente ed è capitato, ma quasi tutti siamo sempre riusciti a risolvere subito la storia. Magari era il cavo da corciare, qualche piede si è andato male, e si è risolta subito. Il fatto di riscendere l'antenna, anche a Savino da poco, mi pare che quando l'hanno piazzata anche l'hanno dovuta scendere di nuovo. Giuse, avanti. Guarda che cane sta venendo, ma dico che non da molto, però lui, per uno spezzone che lo ha fatto impazzire, non poteva avvicinarti ma con più alto di distanza con la Cirino. Lo so, ma non ho voluto infierire più di tanto. E mi ricordo che si è smontato mezza stazione radio per controllare il perché stavo scendo così basso. Però io sono una persona a modo, una persona sensibile a quelle cose e non glielo ho voluto ricordare. Peccato, mannaggia, che fosse stato lo spezzone dentro casa. Poteva essere quello vicino al PL, mannaggia. Non sai dove c'ho le mani. Comunque in ogni caso, Giuseppe, è sempre più facile del tetto tuo. Io salgo sul tetto, metto la scala, è tutto in piano. E l'unica cosa è riabbassare la cosa e rifare tutte le nastrature. Perché c'ho anche la presa della corrente sopra al tetto. E quindi tutto mi viene più facile. Perché c'è il coso del televisore, l'amplificatore. Basta che io stacco un attimo quella spina lì e le attacco una multipresa. Uso anche il trapano, tutto quello che vuoi. Anch'io ho usato il trapano e tutte le cose su. Mi ha portato la prolunga e ce l'avevo anch'io la corrente. Vabbè, ma il tetto è un po' più difficoltoso il tuo. Il mio è a terrazza, quindi se mi dovesse succedere io non fuglia, già ce la faccio tranquillamente. K di positivo, vediamo un pochino se c'è ancora con noi l'amico Bombolo. Avanti Bombolo. K, da anni è tutto più facile fare quel lavoro lì, molto meglio, ma io mi ricordo che una volta ti ha fatto uscire di testa per un'altra cosa. A me? No, a Gianni, è perché non si riusciva a capire cosa era, se lo ricordi già. Io già me lo ricordo, non me le ricordare queste cose anche che dopo mi ci fanno pensare, mi fanno venire di nuovo nervoso. Era perché era entrata acqua nel cavo, perché qualche intelligente mi aveva detto che non ci voleva il vulcanizzante con l'antenna, anche se Natalino insisteva, diceva buon zero, no, non ci vuole, sono modelli di antenne nuove che non ne hanno bisogno. Sì, sì, mi piace ascoltare queste cose, dai, dimmi. E non mi ha fatto mettere il nastro vulcanizzante nell'antenna, anche se io sapevo che si metteva, l'ho sempre messo, gli ho creduto, da deficiente gli ho creduto, purtroppo mi sono trovato l'acqua dentro casa, io ho staccato il piede perché c'era tutta massa, staccato il piede mi sono trovato l'acqua, la goccia dell'acqua che scendeva dal piede di casa. E allora buona, e come ha fatto a arrivare l'acqua dentro il piede, scusa? Prova a indovinare, è tratta acqua nell'antenna e si è assorbito tutta quanta l'acqua, l'ha incanalata in quel tappo in plastica, l'ha incanalata lì e da lì è entrata, si è fatto tipo un lago dentro, infatti ho qualcosa di plastica, gliel'ho tolto, gli ho messo il PL col vulcanizzante e basta, gli ha fatto da bicchierino, si è riempito l'acqua, da lì è entrata l'acqua del PL, poi era stato aspetto col pappagallo, quindi l'ha spaccato, non ha detto niente, dentro da tutta cantare padre. Se l'era come l'ha messo il pappagallo. Giuseppe, sei stato anche fortunato, c'è certa gente che si è staccata la carica e ha dovuto fare un macello. Non avete capito, ho chiesto come ha fatto ad andare dentro l'acqua, perché scendeva, lì si è fatta tipo bicchiere e l'acqua stagnava da quanto lì. E scendeva lungo il cavo, capito? Succede così che il trovo scende lungo il cavo e ti entra fino dentro il piede di casa. Cappa, ma dentro non ho le idee chiare ancora, ma passa dentro il cavo dove c'è la calza o scorre all'estremità, cioè fuori del cavo? Oh, Giuseppe, da dove passa non lo so, solo il fatto che mi è entrata dentro l'acqua, poi da dove è passata il bicchierino era pieno d'acqua, l'antenna l'ho girata a testa in giù e una fontana se l'è presa e ti ho allagato il tetto, ti diguardo. Caspita, mannaggia, poteva esserci il vino dentro qua. Davvero? E allora cosa ho fatto? L'ho lasciata a testa giù per un bel po', poi ho preso una bomboletta e c'è le cinque, l'ho tutta spruzzata dentro all'interno, di modo che togliessi l'ossido. L'ho spruzzata tutta quanta sopra, gli ho passato la vasellina, l'ho tutta quanta rifatta tutte quante le vulcanizzazioni, in tutta l'antenna, ripiazzata e è andata la grana. Cappa di positivo. Io invece vi devo ricordare che devo salire sul tetto per recuperare una cosa. Il segreto? Cappa di positivo, l'ho lasciato su. Ma io ti credo. Cappa? Ma almeno sì. Sì, sì, ed è esattamente come sali sulla botola sulla sinistra. Dischetti nuovi, conferma doppio room. Confermo, addirittura due. No, quello mi vuole mi voleva il muratore per smussare un po' il tubo, capisco. Ok, e la tua ha problemi di stabilità? Sì, è 38, va bene, invece quindi di 42. Beh, Giuseppe può confermare quanto gli ho detto io. Di cosa già? Scusa, ero distratto. Quanto ti ho detto che voleva il tubo che entrava nella antenna? Allora, la Mantova ha 41 e quindi 40 doveva andare bene. Io ti ho detto 40 e l'ha misurato signor Angelo, ha detto questo è da 40 e io gli ho creduto, non è che l'ho misurato io, se no io non gli ho dato lui il metro proprio perché io sono Gugino da Vizzino e quindi l'ho dato a lui. E perché non si misura col metro? Un calibro non ce l'avevate? Negativo. Sono dimenticato, io sono tutto a lavoro io per prendere il tubo, avevo bisogno di colocare per metterlo là giusto, perché col metro avevo i metri, i millimetri, non sono mai giusti essendo 41 mm, oppure 40 mm che ti hanno trovato il metro, non sono molto giusti, capito? E quei 2 mm sono stati pregati voi, magari lui ha misurato anche bene, o dipende come ha messo il metro per misurare i millimetri. No, mi sono più giusto il calibro, sono sapato, bravo. Esterno, misurato, così gli ho detto di fare. E così ha fatto perché io l'ho visto che lo stava facendo così. Però, vabbè, comunque, andata, dai. se no bastava riscendere e andare col calibro, portarli quel gruppo lì, però bisognava aspettare. Giuseppe non aveva gara nella città. Ma qui non avete volato? No. E allora? Allora gli ha messo il tubo che c'era prima in cima. Ah, il tubo che c'era prima in cima e l'altro sotto. Cappa. Pensava. Sì, sì. Ha detto così. Giuseppe, poi gli hanno messo in pirni, a croce. Giuseppe, come hai fatto la parte più fine da innestato su quello? Cappa, sulla mantova ha innestato la parte più fine. E dopodiché abbiamo messo l'altro tubo come rivestimento esterno e va benissimo. Quindi avendo messo quello lì, avete tutto quello che è rimasto è entrato dentro, sì. Cappa, tu figurati che arretta a me con l'antenna senza tiranti. Anche se un pochino mi ci stavo giocando sopra, perché sembra di essere sulle montagne russe quando sei di su. Io non l'ho mai fatto, eh. Se non lo fai, e chi te lo fa, Pierpa? No, io non l'ho mai fatto, di rinnarmi così, come hai fatto tu, di notare un tubo. Pur una cosa fra me e te è una differenza. No, io, Giuseppe, ti assalgo. Se il tetto non è a tegole così, ma se io passo sulle tue tegole, non sai come te lo faccio. Cappa di positivo, lo posso anche immaginare. Dai, comunque, abbiamo fatto, dai, già va bene, caspita, ci mancherebbe altro. Dai, facciamo riprendere l'amico Falchetto che sicuramente si sarà addormentato. Ma chi? Se no, approfittate a bere sul cicchetto. Falchetto, ti stai bevendo il cicchetto? Attento, vedi. Falchetto, non mi non sei caggiuto? Si è trasferito di canale. Penso. Ma penso di no. Però diciamo che anche se arrivi alle 2, poi hai tutto il tempo per poter pranzare tranquillo e ci scappa anche la pennichella, se non sbaglio. Kappa, quello sì, quello è miracoloso. Riposarsi dopo pranzo per me, guarda, se io non riposo proprio da rimango tutto il giorno scombussolato, perché è un'abitudine che io avevo già da quando ero piccolo. Mia madre lo stesso si riposava dopo pranzo, mi diceva io vieni a letto, anche se non dormi stai a letto con lui, e mi lasciava, mi obbligava a dormire, quindi è un'abitudine che ho preso da quando ero piccolo. E tutta la brocolata avanti, perché poi vabbè io entro alle 5:30 e quindi dalle 5:30 a voglia che ce n'è di tempo per dormire, però tu devi calcolare anche che vado a prendere a Marco a scuola alle 4:30, quindi mi devo muovere, mi alzo alle 4, devo lavarmi, tutto canto, vado a prendere Marco a scuola, poi lo porto a casa e poi vado a lavorare. Tappa di positivo. Io ad esempio, se dormo mi sveglio che sono uno straccio. No, io il contrario, ho bisogno di questa radio riposo. Purtroppo, anche se incombe, dopo una mattina di lavoro, se non riposo mi trovano davvero uno straccio a me. Figurati quando mi alzo alle 4 io la mattina, no? E che ti fai tutto il giro e rientri qui a Sassari, vai a chiudere un attimino la giornata di lavoro e ti fai un giro di conti e ti fai 16 ore. E ci sono dei giorni che riesci a pranzare in mezz'ora, no? Ma proprio una cosa fatta veloce, giusto per poter rientrare in tempo per per poter uscire in maniera che non fai rientrando a casa, parti la doccia e poi ti devi ricoricare di nuovo, no? Figurati se trovi il tempo per poterti appoggiare un attimo sul volante, almeno per chiudere gli occhi, 10 minuti, assolutamente no. Giuseppe, la conosco con la vita, quando era l'attimo io partivamo alle 4:30 di mattina e tornavamo anche alle 9:30, 10 di notte, infatti quel lavoro l'ho mollato per quello. È capa di positivo, ci posso credere e ci credo perché è lo stesso lavoro che fanno tutti, dai, chi più e chi meno, dai, e avanti Vera. E poi ti posso dire anche una cosa. La mattina entravamo presto, ma la sera quando rientravamo ricaricavamo il camion, una volta ci andavamo anche alle 10:30, alle 11 a casa, prima di andare a casa ricaricavo il camion, quindi non era finito, dopo la giornata di lavoro stanco come io, ricaricavo il camion, la mattina alle 4:30 stavamo ripartendo, perché facevamo la zona di Palau, facevamo Nuorese, tutto misciato, non era che tu per dicevi la zona di Palau ti facevi quella, no, ti davano consegna a Nuoro, consegna a Palau, consegna a Olbia, l'Isola Bianca, insomma facevamo mille giri. Lì il discorso è anche con le consegne così, bisogna anche attrezzarsi, perché quando cominci a trasportare così con le tame e tutte quelle storie lì ti danno i giri più impensati. E poi quelle bocchine dell'Ever, pesantissime, dovevi scaricare quelle bombine lì dell'Ever, vernici, apparatoli grossi. Una volta mi si è rovesciato un baratto, l'ho rovesciato la vernice, ma l'hanno fatto a pagare. Io trabagliato la giornata barruta, di quelle vernici grosse con barattoli molto grandi, che usano per roba industriale. Un po' di tutto, con le tame, facevamo il Nuorese, facevamo tutti i paesi più pensati, la zona di Nuoro, ma arrivavamo quasi sino al Cagliaritano, Oristano, tutta quella zona lì la faccio fare. è K di positivo. E lì bisogna attrezzarsi. Lì quando devi uscire sai che devi fare quel giro, uno si mette il cuore in pace e niente, lo fai via, perché cosa fai? Tanto se non lo fai tu per forza di cose lo deve fare un altro. Roba di maturata di bolle ci avevamo, mamma mia. E alla grande, alla grande. Adesso hanno preso anche il servizio RAID, quindi è ancora peggio. No, ce l'avevamo già da prima, RAID, da quando c'ero io. Da quando era vicino a casa, in via Ussi. Adesso non esiste più. Il servizio RAID c'era già da prima, c'era Pepangelo, lo faceva e cosa, manca. E K, e lì con quel servizio lì per forza di cose devi andare. Io. Facevano servizio RAID, Sardegna Continente, poi e te mi voleva dire trasporti europei marittimi internazionali. Cava, è vero. E adesso poi, se non sbaglio, si sono ingranditi. Ma io adesso sinceramente non so manco dove sia, so che proprio il figlio ha aperto la ditta contro suo, e che la Temi l'hanno aperta da un'altra parte, però che non so nemmeno dove. So che proprio lì vicino dietro la piazzetta lì. E lì bisogna correre, ti ripeto, si correva prima, no? Però adesso con la concorrenza che c'è già e con quel poco di lavoro che riesce a tirare fuori, prezzi stracciati e correre sempre di più. Pretese sono sempre più grandi, da parte principale, più ne fai, più ne viva. K di positivo, dai, facciamo entrare Vera. K, io riprendo per chiudere, ne risalto tutti con la buonanotte, dai. Ce ne ascoltiamo a domani alle prossime. Buonanotte a tutti, buon trabacco a tutti, dai. Ciao, ciao. Ciao Vera, ci sentiamo, buonanotte, dai. Falchetto ci si. Falchetto si è addormentato, avanti Gesù. K, ciao Pierpa, buonanotte, buon trabacco per domani. E tra un po' ti raggiungo anch'io, perché anch'io, anche se gli sbadigli non si sentono, però mi si stanno chiudendo gli occhi, mannaggia. Dopo Giuseppe, quando si lavora così. Volevo chiedere una cosa, Giuseppe. Dimmi, Anto. La fabbrica dei vetri, andate a prenderli o ce la mettete voi lì? No, negativo, arrivano da Pisa. Allora praticamente arrivano da Pisa e vengono caricati dopo nel tuo camion e portati a Sassari. Come viene, com'è la situazione? Allora, diciamo che il forno principale qui in Italia è a Pisa, e poi ci sono tante altre filiali a Caserta, a Forlì, ce n'è un po' da tutte le parti, e ce n'è in Francia, e in Spagna, ne hanno aperto anche in Egitto, cioè questa dove lavoro io è una multinazionale che manco loro sanno quanti dipendenti siamo e quanti forni ci sono sparsi per il mondo. Il fatto è che quando producono il vetro, ti faccio l'esempio di Pisa, quel forno lì lavora 24 ore su 24, quindi fanno i turni, no? Giorno, notte, cantuè. Una volta che lo producono viene ingabbiato in quelle gabbie in legno che avete visto giù in stabilimento, vengono caricate su articolato e spedite per tutta l'Italia. Quindi da noi cosa succede? Caricano gli articolati, li imbarcano e sbarcano a Olbia. Si agganciano e li portano qui a Sassari, come hanno fatto stamattina, e dopodiché si scaricano. Ma praticamente prendere il rimorchio lì nello stabilimento. Così è. Poi tu li prendi, qualche altro tuo collega li ha consegnate. Cappa, è proprio così. Arrivano con gli articolati, li scarichiamo, li immagazziniamo e dopodiché distribuiamo. Ma cappa, ho capito adesso. subito si è recatinata un camion, un po' guastente, un po' gassato, un po' gaccagliari e via. Kappa di positivo, tutta la Sardegna. In effetti noi siamo SGGI distribuzione. Poi l'ultimo c'è il vetraglio che deve fare le misure, le cose, darle fine. Kappa è un po' come noi, dai. La stessa cosa che il gas viene da Porto, cioè viene la petroliera a Porto Torre, scarica, poi da lì viene imbottigliato nelle bombole, da lì la trasporta il camionista e poi gli ultimi siamo noi a venderle. Kappa di positivo, e lì subentra la distribuzione. Gasiera, non la petroliera. La gassiera. E vabbè, sempre vicino Napoli che trasporta. E poi ci sono le tubazioni, no? Che vanno verso la Sima. Sì. E così funziona più o meno lì, C'è tutto un giro, paghi sul costare in gare. Tu devi vedere cosa c'è di tubazione dentro la Sima, non so già sul carro, sembrano. C'è una cosa che chiamano il pontile, tutto pieno di tubi grossi per lo scarico della nafta, dei prodotti, vabbè, che portano petrolio e via dicendo. E tutto si attacca a lui, infatti dove il molo Cattani, ma il molo Asi, dove tu mi stavi dicendo che doveva pescare, abbiamo un amico che lavora lì. Mi ha detto che quando staccano le pompe dalle navi, già sai quanti litri ne cadono in acqua? Io, litri, 10-15 litri, come staccano la pompa? Infatti lì quando c'era la petroliera o la gasiera non facevano entrare nessuno a pescare. Poi quando parte la nave, non so se tu sei mai stato quando parte la nave, io sono andato a vedere degli amici che pescano lì. Quando è partita la nave ha lasciato la schiuma a galla, ha durato più di un quarto d'ora. Evviva! E poi vanno dagli costa a mettere i raccoglitori sotto. Infatti. Bene, signore e signori, mi sa che io sono arrivato. Vi auguro a tutti la più cordiale buonanotte, buon inizio di trabacco a chi lavora per domani, già a te buona continuazione di queste benedette ferie, già servono, vai, per riposarsi un pochino, vai, e ce la risentiamo tutta quanta domani. Buonanotte a tutti. Sempre è bello sapere che non devi andare a lavorare, c'è una cosa bella, che ti riposi un po' di più a volte. Ti saluto Giuseppe, ti auguro buon trabacco per domani, una buona notte, avanti. Buonanotte Giuseppe, dai, ce la risentiamo domani alle prossime, ciao. L'abbiamo scattato da questo canale. Mi hanno sfrattato. Gli hanno sfrattato il canale vostro? No, ce ne siamo andati noi, non è che ci hanno sfrattato, abbiamo cambiato noi. Ah, ok. Grazie a Gianni, poi Antonio e Pierpaolo, non so che ci sia. Avanti già. Ciao mascherato, questo è visto, dopo tanto. Vabbè, già li ascolto sempre, là. Ci sono sempre all'ascolto. Allora già, tutto a posto. E diciamo di sì, dai, sono in ferie, anche se il tempo non è favorevole per andare a pescare, io stavo sognando di andarmene qualche giorno a pescare, ma mi frega sempre, perché domenica era bello, ma non c'è il voesca, quindi non sono potuto andare. diciamo che sì, tranquillo, abbastanza tranquillo. Infatti ieri c'erano parecchi di attaccavano pescando, quindi il tempo era discreto, non era male. Ieri già l'ho visto, sono sceso anche dove vai in quel bar lì. C'ero anche io c'ero di mattina e poi sono di sera. Siamo scesi... Cosa siamo scesi? Di mattina o di sera siamo scesi? Siamo scesi la sera, ma verso presto, siamo fatti un giro lì e poi siamo andati a bere una cosa al bar. E a pagare, ho detto, basta, poi qui il ballo fra questa maschera, ma non c'è uno. Ah, io sono arrivato alle 7 ieri sera, qui di mattina c'ero da mezzogiorno a luna. Pagato. Fai sempre per vento, da mezzogiorno a luna sempre per vento. Allora, non è che sono mi addore, ma che te no, ho già. Però dopo gli amici, sono con loro, basta, mi devo fare così te e tu. No, io bevo caffè, mi dato tutto, quanto bevo io, per esempio prego lì. Ma non beviamo noi. Manco un paio idea. Litter, Coca-Cola, caffè. Dovete la forchetta. Ma con Campari, niente. Litter con l'arancia. Io, tanto dicevo, se arrivi un barista, infatti a te non lo può benissimo, non vi sarete sbronzati. Ok, allora tu, tutto bene? Tutto bene. E poi dice, ma c'è anche Pierpaolo, avanti. No, Pierpaolo ha chiuso. Ah, chiude, vabbè, non fa tempo. Andare, e infatti stavo spazzolando, ma cazzo come mai non ci sono? E poi mi penso che siete qua più in basso, invece mi hanno mandati via. A noi non ci manda via nessuno, non c'è nessuno che ci manda via. Ce ne siamo andati noi, perché c'erano delle persone che entravano e che non erano gradite, se proprio lo vogliamo messo. Sto scherzando, ma io infatti sono spazio vado, adesso entro a sottare a Gianni, anche non era piazzato, ho fatto male entrare in questo canale. Non ci piace stare tranquilli. A noi non ci piace la tranquillità in frequenza, parlare tranquilli, non rompere le scatole a nessuno, c'è la metà, quindi ce ne siamo per i fatti nostri, non vogliamo essere cercati. Giusto Gianni, giusto. E poi ho detto, ma adesso non so se entro in questo canale oppure vado nell'altro, infatti volevo chiedere prima lui se poteva entrare. No, facciamo così per nessuno, io l'altro giorno l'altra volta ti ho detto cosa perché mi ha dato fastidio particolare, che tu prima stavi parlando con noi e hai detto che quella persona ti stava sul cavolo e poi sei andato a parlare con lui e ho sentito che hai detto, adesso non mi ricordo nemmeno che cosa, io ti dico che ha detto no Fabrizio, non so, non te lo mando a dire, parlo in faccia. Ma infatti era un po' di altro discorso, però se tu hai ascoltato bene, io stavo, c'era anche altra gente in frequenza, non sono entrato proprio per salutare o per parlare con lui, però si vede un canale per sapere le persone, e questo ti manda la parola, cazzo vedi, no, mettiamoci in palo, sei un coglione, sei questo o quell'altro, ma di riflesso ho dovuto parlare con lui, però tu lo sai, no, anche a me non è stato simpatico. Beh, io magari ti ho detto impulsivamente, ma ho ritenuto opportuno dirtelo, perché, ti ripeto, non mi fa essere falso, non mi fa di dire le cose agli altri, magari poi tu non le sai, ti dico a te in faccia, poi in faccia, oddio, ti dico a te, no, perché non siamo in verticale, sotto direi anche in verticale, non c'è la problema. E sono abituato a fare così, io. Sono alla luce del sole sempre, non mi piace fare duble fast. Ma tu hai francese, sei passato in quarta tu, però se ti ascoltare bene, io non sono entrato solo per lui, sono entrato perché c'era delle persone che mi interessavano, non per Edo. Infatti, per quanto riguarda Edo, segui Olga. Tu, ma... ascoltalo. Ciao. Ciao, vabbè. Siccome ci stanno provocando in questo periodo, stanno facendo di tutto per rompere, per fare, io voglio stare tranquillo per i fatti miei, non ho cercato nessuno, voglio essere cercato. E magari ero preso un po' impulsivamente perché già ero scontato da queste cose qua. Dai, per così poco ti arrivi. Quando c'è così o pleno, giro e ce ne sono cose da ascoltare. Noi abbiamo una settimana di quattro amici, utilizziamo una frequenza tranquilla, capito? Con un sistemino dove non si può ascoltare, capito? Anzi, per ascoltare con un scivito normale si senti solo quando si parla con la bocca piena di acqua. Capito? Quando vogliamo trovare io per la stessa fesseria. Capito? Già una bella fea. Vabbè. Ma io da parte mia sono molto tranquillo, Fabri. Sono molto tranquillo. Naturalmente non mi do per stare in piedi. Perché se mi infestano i piedi mi rompere le scatole e mi anch'io, è normale. Però sono una persona tranquillissima che se a me non mi toccano, sono proprio tranquillo, do il cuore agli amici, non so quelli che si fa bisogno dei padri, perché a me la gente falsa non mi piace, preferisco che non mi dica che sono un conzone in faccia. E se c'ha ragione gli dico, guarda, scusami, ho fatto male, ho sbagliato, adesso non sono anche capace di ammettere certe cose, però non mi piacciono quelli che vanno, trovano una persona e gli dico, mi Gianni, così, cos'ha, capito? E poi dicono anche cazzate, oltretutto. Quello sicuramente, capito? No, ti ripeto, ma tu sei una persona calmissima, tranquilla, caso, rispetto a altri tre potenti che se mai ci detto qua, non voglio andare, ti ripeto, quando uno si mette per dire l'ho prestato e già so possiamo andare, capito? Ma del tipo parlare con 4 o 5 frequenze, 4 parametri, e poi prendo la testa a sapere dove stiamo parlando. Però, ripeto, come va la fea? Io quando vedo così, prendo, spengo, non la futtivo, io non so cosa fare. Cazzo, già sta bene per il baracchino, o per qualche ignorante. Il fatto che il nostro rilassamento dopo che torniamo da lavoro, capito? Perché se si deve andare un rinviolo, si ubriaca e gioca a casa. Io non riesco a farlo, a me piace, ho la passione e tu sei da quando? Per questa radio qua e qua. E ho fatto di tutto per far riprendere la frequenza. Ho lottato, ho cercato amici, anche ricchi e cose, siamo messi d'accordo e abbiamo ripreso noi dopo 10 anni, perché non vedrà più nessuno, tranne Mario Mao e Gio Maria, non vedrà Saieri. Loro sono sempre rimasti, la verità, ma ho fatto qualcosa per far riprendere questa frequenza, però un po' me ne sto pentendo, perché da una parte ho trovato degli amici, anche nuovi, che sono molto in gambe, educati, dall'altra c'è sempre chi ti combatte, chi sembra che sia, che quando tu sei tranquillo ti voglia colpire, fare, senza motivo, capito? Senza queste cose un po' danno fastidio avanti a me. Vabbè, queste cose la fanno altre volte. Ripeto, non c'è nessuno che è più forte di te o di quell'altro, capito? Tutti cadranno prima o poi, tranne una persona che non è in questa terra. Non me la sta pagando, io sono tipo tranquillissimo, cerco di irrizzare fin quando puoi irrizzare, capito? Non cerco me lo scontro, non me ne frega niente, guarda, io prendo, cambio, giro, faccio, però non mi permetto a dire, lo metto portante a tutto, rischiare, io vado così, questo è quello che tu metti la portante, quello che ti dove ti diventa una palla in fronte, perché non sai mai con chi ha a che fare, con chi c'è dietro, chi non c'è. Quindi è meglio sempre evitare la stravaganza, non ti porta niente la stravaganza. Infatti, quanto se ne sono sentiti anche in continente, per un parcheggio si ammazza. Cazzo, quello dice cosa, perché gli ha fregato il parcheggio, quello si gira, pira la pittura e la ammazza. fatto del genere con l'ignorante di Badesi. Un giorno parlano sul canale, noi conosciamo, eravamo sul 10, è stato dato una prova degli amici miei che erano in campeggio in Liguria, in un monte della Liguria, col portate, allora i baracchini però utilizzavano con le batterie da macchina, capito? Perché erano accappati, lontano dalle macchine. Capito, ma cazzo, questi erano solo allora, degli apparecchi che utilizzavano i quadri, no? E poi avevamo il 10, che avevamo il 10, io gli ho chiesto a questo coglione, un camionista di Malesi, e poi muto anche, ho detto scusa, mi potresti andare in canale, vabbè, il cognato di questo qua c'è la casa al centro commerciale, no? Quindi loro la notte parlavano sempre da Badesi al centro commerciale. Beh, tu credimi che lui non ha mai usato il baracchino, perché adesso tu non ci parli più, perché io sono a metà strada tra voi due, il mio cugino Cristino, e non ho bisogno manco di attaccare il lineare. Mando una direttiva, con 5 watt loro non ho mai parlato, capito? E quella è stata l'unica volta che io mi sono portato in vita mia, capito? Perché quello è stato un coglione, un arrogante, ha detto, visto lei cosa ne ha avuto, che non ci parli più adesso, se vaffanculo. Ma c'è gente che è stravagante, ricchi di occhi di coppia, se avete tipo di quel paese. Diciamo che non tutti possiamo essere uguali, Fabio. L'educazione, ognuno apprende quello che gli hanno insegnato. Se i genitori erano più cafoni di loro, che cosa faccio, cosa possono aver appreso? Peggio. Ma io gli ho detto gentilmente, cazzo c'hai due cane in casa, ti ho chiesto perché questi amici miei avevano solo il canale in quel momento a disposizione, capito? Se avessi avuto la tele gli altri apparecchi, cazzo mi spostavo io, non mancava niente. Io dicevo, oh, non ti pago, sono qua, no, cazzo, a così va bene, e vedrai che tu parli col telefonino, infatti sempre importante, capito? Andava lì, passa sull'80 e scappava la risa, quando era sull'80 c'era già un apparecchio importante per dire, ma l'altro ho fatto io, perché c'è sto gentilmente, non è che tu non ti sono più poco, fa un culo, sai, su di randaggi, e vabbè, io non ci ho più parlato, stavo qua, non uscivo, ma tutto non ci parlo mai, capito? Mentre in merda, io queste cose non le sopporto, se ho chiesto a gente che ci voglia bene, e come tutto a provocarti. Si va. Io a me mi è successo come un vincere, senza andare tanto lontano, a Porto Antonio. Io sai benissimo che facevo il consegno e cose. Devo consegnare in un ristorante, una roba, e c'era un vigile, non c'era parcheggio, gli ho detto un secondo solo, mi ha guardato, non ha detto niente, ha detto vabbè, prendo il puntino a scaricare. E la signora è trattata, ha detto guardi che restavano nel furgone, dice mio, stavo facendo la mussa, sono uscito fuori da questo vigile, scusi ma l'ho anche detto, lei faccia il suo di lavoro, io faccio il mio. E gli ho detto, fino a te qua ti aiutino così, nella sua vita quando ha bisogno. Cazzo, questa frase non gli è scesa nessuno, ma se mi ha avuto la multa, me l'ha messa per 3 giorni di seguito. E il mio principale ha detto, cazzo, in 29 anni non ha mai pigliato la multa, e adesso 3 multe di seguito, ma è qui, è la stessa persona, sono lontano. È andato al comando e l'ha chiamato il comandante a questo vigile e gli ha detto cosa era successo, ha detto che ero contento che ne avevo parlato male, e gli ha detto uno che se uno ti parla male non è che devi fare la mostra, devi fare perché. Poi che cosa ti ha detto? Ha parlato male, questo è venuto dal mio principale, ma ci ha mandato l'ufficio, mi ha detto cosa gli ha detto, ha detto solo che tutti ti aiutino come stai aiutando tu a me nella vita quando hai bisogno, così perché mi ha risposto di farmi io il mio lavoro che lui si faceva il suo. Guarda già, non parlare di questa persona divisa, perché io mi sono per portare un tribunale, capito, questi miserabili. Però non era quella tipo, un altro tipo di divisa, capito? Perché è successa una cosa, cazzo, però era un posto, questo qua è entrato, sembra io come una ragazza, tranquilli, questo si avvicina. arrabbiato, con la sua arroganza, ma questo mi dia i documenti per favore. Mi dia per favore i documenti, ma io gli ho chiesto, se me lo chiede per favore, gli trovando, capito? Lui mi ha detto, da coglione, e allora io la sto portando in caserma a identificare, guarda che lei, vede lì, perché sono maleducata, sono arrogante, perché quando lei mi porta in caserma non mi fa tanto culetto. Però io già, siccome ho avuto esperienza con questi pezzi di merda, io quando esco ho sempre un piccolo registratore digitale. Per la sua sfortuna io già sapevo già come reagiscono, l'ho messo in trasmissione, sono registrato. Sono registrato tutto, quando ho detto così, ho detto così mi dovrà dire al suo superiore come si è comportato. Non so cosa mi detto, ma il mio superiore chiede sicuramente a me, non a quello che stai dicendo lì, capito? Quando poi lui è uscito, ha lanciato la sua collega di la Sabisi, lui poi è uscito fuori, ha preso tutti i dati, no? Poi esco fuori, gli ho fatto, caro signore, lui mi ha detto, gli è andata bene stanotte, con la panica, e lei, io gli ho detto, lei mi porta in caserma, e poi vediamo, gli ho fatto il registratore, con questa registrazione, a vedere chi ha detto le bugie, ma sa che lei dichiara il falso, è un reato, è ancora peggio per lei che ce l'ha divisa, lei mi porta in caserma, se c'ha le palle sotto, si è fatto un piccolo cazzo come un verme. Ma come non ti hanno sequestrato? È un cazzo, si può dire, è stato sequestrato, non me. Capito, quando questa a mio zio ha detto, allora così cazzo è fatto, se tu vai, lo porti in tribunale per del posto, perché ha dichiarato il falso, cioè ha dichiarato che tu ti sei comportato male, risposta, invece lui è stato arrogante, questa cazzo lui dichiara il falso, gli si sarebbe fatto cazzo sciolto in tribunale, l'avrebbero cazzo subito buttato fuori. Ma tu ci sei? Dove ci sono? Vai prendi là. Purtroppo esistono sempre queste persone qua, che fanno in arrogante, cose, questo fanno la persona più dura di lui e si abbasciano. Poi io ero tranquillamente, non è che sta facendo, se lui era più, mi si avvicinava, scusate, buonasera, favorite i documenti per fare il numero di controllo, io te li davo, cazzo sono contento del tuo lavoro, ma ti si avvicinata arrogantemente, la coglione, cazzo trattandomi così, e poi per di più è fatto l'arrogante, cazzo e poi ci premeditando, cazzo che lui, cioè la sua parola pareva più della mia, perché aveva di figlia, capito? Quindi io disonesto, io ero onesto, quando gli ho detto cazzo portami in tribunale, dice portami in casa, l'ho scatto sotto, e poi vediamo che stai dichiarando il falso, io sono stato scortese con te, invece sei stato tu, cazzo mi ho detto se ti lo portavi in tribunale ci avrei perso il posto, perché nel verbale ha scritto cazzo così, ha scritto le bugie, cazzo, te immagini, se non avessi avuto quella registrazione questo coglione mi avrebbe fatto passare i problemi senza aver avuto torto. Allora Fabri, te ne posso raccontare 100.000 che mi sono successe a me sulla strada, però te ne racconto una che è stata la più, diciamo quella che mi ha toccato di più. Una volta ho fatto, come tante volte, ho fatto il notturno con un amico a Porto Antonio a pescare. E la notte mi è andata anche molto bene. Avevo preso un bel po' di roba, avevo preso latte, saraghi, un bel po' di roba, però tutto contento, cioè dentro di me ero felice, là. Come ti dà la soddisfazione quando fischi. Stavo ritornando da Sossoli, mi rialzi con la macchina, la verità era un po' tardi, erano le 4:30 di mattina, me ne stavo ritornando perché non c'avevo più esca, se no sarei rimasto perché quella lotta era anche buona. E arrivato lì dove c'era Fiamma Sarda, c'era parcheggiato un autotreno. E là dietro questo autotreno io stavo anche un po' camminando, dico la verità, perché non volevo tornare a casa e avere un padrone. Da dietro questo autotreno esce di colpo questo carabiniere con la mano mi fa di fermare, si è messo in mezzo alla strada con le braccia aperte come per fermarti, e non aveva né paletta leggi un po' di frangente, niente. Io come mi sono questo sacco, ma meno male la mia macchina c'è la PS, quindi io non sono resi conto manco che stavo correndo. Ha fatto la PS, no? Senza, mi sono cagato sotto, mi stavo tremando. Questo qui arriva, mi punta la pila in faccia, poi me la punta dentro la macchina. Mi faccio, vuole i documenti, mi ho chiesto forse i documenti, ho detto ma allora non mi ha fermato, ma sì che l'ho fermata. Che cosa stava facendo a quest'ora? Era a pescare, c'era ancora piscina lì, infatti un conto, perché li avevo messi nel secchio con l'acqua e poi li ho tutti, ce l'avevo nella busta, erano ancora vivi. Ho detto guardi che ho i documenti dietro, gli ho chiesto forse i documenti, no, vada, mi ha detto, allora lì mi sono incazzato, gli ho detto scusi, ma io sono un cittadino onesto, una persona che rispettosa, perché mi deve trattare così solo perché ho una divisa, si accomodi. Vecchio, mio amico gli ha detto a Sergio, lei deve ringraziare che lei c'ha la divisa in questo momento, perché lei senza divisa non vale a niente, vale meno del niente. Ecco, lei si sta nascondendo dietro la divisa, perché se ci mettiamo a quattrucchi senza divisa lì non è niente, perché gli schiaccia la testa per la sua arroganza di merda che ha, capito? Lei si sta difendendo con la divisa, perché se lei sia un uomo veramente si tocca la divisa e faccia l'arrogante senza divisa a vedere, pezzo di merda che non si altro. Vabbè, ce ne sono molto prepotenti. Ma loro, sai, hanno a che fare con... Io una volta sono sempre andato a pescare, ero con un amico in macchina, a Passo San Nicola, stavo andando verso Stintino a prendere gronghi, burene, roba così, con i filacci. Al posto di blocco, a Pozzo San Nicola, ci fermano questi due pivellini, carabinieri, pivellini di quelli giovani, tutti tribulenti, col mitra in mano, cazzo. Questo amico invece la fece in appunto di buttare il mitra in faccia. E questo amico mi ha detto, scusi, ma non punto di mitra dalla faccia, non c'è che gli impatta qualche colpo. Io non so con chi ha a che fare, scendete dalla macchina, mi hanno fatto un bel bastardo. Ci hanno fatto aprire il cofano, hanno voluto vedere la roba a pesca, e poi hanno fatto amicizia con lui. Prima però hanno fatto un bel bastardo, perché loro ci hanno detto, noi non sappiamo con chi abbiamo a che fare. C'è la persona brava e c'è anche quella cattiva. E noi dobbiamo sempre prevenirci nelle cose, no? Beh, fatto sta che è stato un bene che l'abbiamo trovato. Ah, ci hanno fatto anche ridere perché hanno visto la macchina correndo. Fermo a questo. Cazzo, quello è andato con la paletta, era una patrulla dei carabinieri loro. E l'amico gli ha detto, l'altro carabiniere, il collega gli ha detto, poi non c'hanno ragione che ci fanno le palle del letto. Ma sono fettenti, ho fatto guai, ho messo degli sattone. Vedi, ci ho sempre appresso, quando vedo il cazzo di viso che si avvicinano a me, guarda, perché sono dei pezzi di merda, proprio ti trattano, cazzo che buh. Alla fine, cazzo, se tu non avessi avuto quella prova il giorno, che questo è importante, in casa mi diceva che io mi ho fatto male, ti ho dato del documento, io ho fatto perché sei stato un arrogante tu, nel senso non sei altro, però si è fatto piccolo. Poi il mio zio, quando l'altro fatto, gli ha detto, ringrazio che quello è il mio importante porta, cazzo, se no, avvide, se ti passa la fantasia di fare il coglione. Così mi sono entrato nel locale di tutto, io così, e se ho capito. Ma no, mio zio faceva la stessa divisa di questo coglione. Io gli ho fatto ascoltare a mio zio così. E poi lui ha trovato questo qua, e ho detto, devi ringraziare, non ti ha portato un cazzo, e non l'hai portato su in casema, perché se ascoltava la registrazione, erano i cazzi due, allora se l'avessi finito di fare lo strapagante. Che tu cosa la dici? Tu quanto sei a cazzo, tu mi hai richiesto, se hai detto cosa fai a dire, che tanto ascoltano proprio a te in televisa, a te al collega, no? Che ti stai dicendo? Però se ti porta in tribunale e ascolta la registrazione, non puoi voglio vedere se ti ha dichiarato il falso, lo sai che per chi c'ha la divisa è ancora più grave. Poi uno deve essere cortese, che non ti dico niente, addirittura la prima mi ha fatto ancora venire, un po' gentile, ti fa il saluto, salve, e favorisce per cortesia i documenti, ma tranquilli, togli dai documenti, io non mi trevo in mano, a chi non faccio da dire, ti dai documenti, mi ritorno, non li rimetto dentro, arrivederci, buona giornata, e ti saluta. Sì, ma quelli si qua, siccome questa era di notte, ero con una ragazza, io, cazzo, quindi magari voleva fare un ragazzo, per essere magari, se mi assicurerebbero me, guarda, gli ho fatto, guarda che poi, quando tu dici il computer, il mio nome e il mio cognome, esce sempre negativo, capito, quindi non mi fai spaventare, imbecille, cazzo, ma tu riprendi. Fanno sempre gli stravaganti, fanno, poi trovano quello duro che le mette in carreggiata bene. E certo che gli è andata bene, perché se ci avesse avuto il cellulare in mano, li avresti registrati, l'indomani avrebbe passato un sacco di guai quello lì. Ma tu, ma io li ho registrati, forse non hai capito, io li ho registrati, io ci ho sempre appeso un piccolo ricevitore digitale, no? Io ho registrato, perché so come fanno che si comportano, capito? Io ho registrato tutto il fatto, da quando lui mi ha chiesto, perché io ho visto, io ero lontano, a parte diciamo lontana della sala. Quindi quando l'ho visto che stavano verso di me, io già l'ho messo in moto le ricevute di registratore, perché so che elementi sono. Io ho registrato tutto, dall'inizio alla fine, quindi il cazzo era da farsi piccolo piccolo se il suo superiore o un giudice ascoltava come si è comportato questo coglione. Si sarebbe fatto, cazzo, io dico, poi ha dichiarato, ma cosa crede che tanto quando andiamo dal mio superiore credono a me e al mio collega, non credono a lì. Capito? Cazzo, si ti legge si è fatto piccolo piccolo. E io non le avrei nemmeno detto a Luciano in casa, ma li avrei fatto ascoltare rispetto al maresciallo. Infatti poi guarda, ci ho pensato troppo, capito? Poi cazzo mi viene sulla, mi sta dicendo che io mi sono comportato così sguardamente quando è stato lui il coglione che è venuto a provocarmi. Il carattere è come delle persone normali, sono quelli gentili, fanno il loro dovere, se ti devono mettere la multa te la mettono lo stesso, però sono gentili, non ti danno modo di inquietarti, dai, ci sono quelli proprio che ti provocano. Lo so, vabbè, finché gli va bene, poi cazzo non trova quello, cazzo ho messo male di testa che gli mette qualche cosa in fronte. Fabri, una volta io ho visto una scena, e vista con i miei occhi, perché se me l'avessero raccontata non ci avrei creduto, l'ho vista con i miei occhi, sono andato in via d'Italia in un bar a prendere il caffè, e c'era questo ragazzo che era tranquillo bevendosi il caffè anche lui. Arrivano questi due poliziotti, lo affiancano, uno da una parte e uno dall'altra, e cominciano a tirare le calci e rischiare. La cosa di vendica, a me che sono tranquillo adesso, cosa volete da me? E lo stavano provocando. Ma perché cosa ti abbiamo fatto? Perché ti abbiamo fatto una lampadista che se lo stava guardando, se li stava guardando male. Io mi sono accorto di tutto, perché li ho proprio visti mentre... Ma che cazzo ne avrà da di bambini? E sto dicendo, sono persone che tu, guarda, ci sarà quello bravo, però la maggior parte, guarda, sono per carità, io sto dicendo, sono persone che mi hanno preso queste che si comportano così e messi cazzo in prigione veramente, sono così, sono tutti così, cazzo, vabbè, sono allucinati, fermo, ma poi una sali, mi stanno da Urbia. Dopo Berchia c'è un rifugio della S, no? Appena abbiamo dice una piazzola, io fuori mi fermano spesso lì perché fanno le epiche, cadono, a prato così. Cazzo, mi sono rimando, ho fatto, mi ho mangiato la pizza e poi sono ripartito. E io mi ho aspettato, mi ho fermato, ho detto, ma appartamento, perché intanto no, ma io non ci attenerà nessuno, capito? Perché se non è stato andato nessuno, siccome è semplice da mangiarmi la pizza, quindi non ho nessun problema, perché non lo devo ottenere. Però ho visto come sono partiti in malafede. Sì, sì, sì. Ti provocano, se non se ci stava a terra. E a me una volta la Graziella ha trovato questa ragazza che stava facendo un logo, non da Graziella, più indietro di Graziella. Ah no, era da Graziella, sì, loro erano più avanti. La Graziella ha trovato questa ragazza facendo un posto per minigonna e cose. Vabbè, prendo ma la sede, era di notizia dentro, magari la serve con la sede, siede qualche malintenzionato, vedo che la musio, sì. E mi ha raccontato questa ragazza, ma andando che c'era un ragazzo che la stava aspettando davanti all'oggi, perché avevo visto un posto di blocco che era più avanti, poi l'ho intravisto anch'io il posto di blocco. E c'era stato 100 metri più avanti, era proprio il posto di blocco, era proprio dove c'è quello spiazzo di fronte al fornitore. E noi, io l'ho preso la Graziella, questa ragazza. Vabbè, ci fermano, e invece che chiedere a me la patente, la chiedono a lì. Dice, scusi, la patente lì ce l'ha. Ci dice, ma mica sto guidando io. Dice, ma lei la patente ce l'ha? No. Ecco perché si è fermato, perché stava guidando la ragazza. E si sono scambiati di posto perché hanno visto a noi. Adesso ci segue in caserma, ma non c'è il mondo in testa, ma la sta dicendo. Io questa ragazza l'ho presa in autostop, ho fatto autostop e l'ho presa. Tutto lì, mi sono fermato per prenderla. No, no, no, no, meno male che c'era un amico mio, in mezzo a loro, in mezzo al posto di blocco della polizia, c'era anche un amico mio. E ha fatto finta di non conoscermi, ha detto praticamente, ma scusa, e al collega, tu come hai fatto? Ci sono più di 300 metri di qua, come cavolo hai fatto a vedere quello che stavano facendo loro? Non diciamo fesserie, dice, come hai fatto tu a... Tu non ti preoccupare, stavano bisticciando tra loro, ho detto, mi segue il caserma quello lì. E... Ecco, se si è messo questa ricorda, mi ha detto, vada, si accomodi, ci penso io, si preoccupi, arrivederci, e mi ha mandato via. Cazzo, se non ci fosse stata questa ricorda, mi avrebbero messo nei casini, per un passaggio in autostop. E dopo era vero, il ragazzo la stava aspettando lì, all'incrocio era anche dolce. Però poi come fanno a insinuare che tu ti sei fermato, lì stava guidando, ma cazzo fa a dire? Ma vai che come arrivi in casa, ma cazzo si può arrivare, no? Si zene, ma tu ce l'avevi visto, di notte, come fa a vedere cazzo dentro una macchina di notte con c'è fuori accesi, come cazzo ha fatto, ma vai, è stato un imbecille, secondo come ti in casa, ma si mette a ridere, cazzo le cose, così dice il capo, là. Diciamo che la fortuna mia è stata che ho avuto questo, mi volevano prendere la patente, ma mi volevano sequestrare la macchina, me la chiamano la carattrice, ha detto ci segue il caserma in macchina con lui, poi la macchina l'ha presa il carattrice, la sequestriamo, ma dimmi tu, e guarda di un mondo in capo, se ne siamo così, ecco la ragazza, sono mortificata, scusami, non finiva più di mi scusa, poverina. Capite, tutto per un gruppo di imbecilli, cazzo. E subito ho visto malafede, maledette, cazzo. No, loro cercano sempre di incastrarsi, capito? Loro la dicono, se va, va, se no, si la vita è luce. Però tanto cercano sempre di incastrarti come vogliono loro, capito? E infatti io da quel giorno lì, Fabri, la verità, non sento più le ragazze, prima se ne mangiano più, adesso non sento più nessuno, perché non voglio più casini, capito? Ora mi trovi in quella, cazzo, poi me ne ha raccontato un autista una volta, vicino lì proprio a Bertita, è andato a fare uno scarico, era vicino proprio al paese dove abita, e... Praticamente dice che ha visto questa ragazza facendo autostop, lui si è fermato, l'ha preso col cavolo, e tu dove devi andare? O 20 km più avanti dove stava andando lui, proprio, in realtà io gli avevo un passaggio, mentre stava andando, gli ha detto, o mi dai 100 euro, oppure dico che mi stavi violentando, mi strappi i vestiti e dico che mi stavi violentando. Lui parla vergogna, perché dice, se non sono in paese questa cosa qua, ci perdo la faccia. Ha preso gli altri 100 euro, c'era uno in moto, la stava aspettando, lui si è ufficiato. Adesso non c'era niente, eh? Avanti a tu. Aspetta un attimino, Fabri, che stanno dicendo, attento, vediamo l'amico se ascolta l'Italia. Ma se dice Pierpaolo con lo portatile, poi che non fiuga. Ciao Pierpaolo, stai bene. Avanti, no, lo sentivo. Io te lo sentivo, però era l'office, si è preso il portatile, non stavo facendo attento, my friend, attento, my friend. Ecco, oggi come mi ascolti di, se è così sdraiato, come mi ascolti di radio e di segnale, com'è già? Aspetta, il radio, per radio, qua segnale. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova, Il segnale si è quasi 9, per la prima del 9, no. E che radio si 5, va bene. Chi sta di nuovo chiamando Pierpaolo? Mascherato, attento mascherato. Io lo sento, Pierpaolo. Lo senti, sto portando, vabbè, io c'ho una recensione famosa, tu sei più vicino di me, non lo senti, boh. Che vuol dire che la parte opposta di me, boh, sicuramente è così. Sentendo la braghetta lunga, non so che cosa. Allora, io lo ascolto, io faccio QRM0, ma non lo sento, boh. Attento, attento, mascherato, si ascolti la braghetta sarda. Yeah, io ti ascolto per non ti ascoltavo, proprio zero, proprio niente. Vabbè, ho fatto una traccia poc'anzi a Gianni, se io ti ho fatto conto, ma mi ero sbattato al vostro canale. Me lo puoi ripetere che non ho capito, mi stavo sbagliando il telefono. Ho detto che poc'anzi stavo spattolando, vi ho trovato su questo canale. E io e Gianni, cosa abbiamo sbattato al vostro canale? No, ce ne sono sbratti, no, beh, questa è un'chiama perché, come tu sai, qua abbiamo il disturbatore di antenne che stava rompendo le scatole, però eravamo su 10 in realtà, dai. Sono passato un'chiama perché c'era sempre questo bastardo rognoso che rompe le scatole. Lo so, ma se ho già, adesso fa una prova, no? Vai 27.040, fai un po' di ascolti e mi dici se ascolti qualche cosa, capito? 27.040 corrisponde al canale. Ah, tu sei al canale, buono il coso. Non lo so, questo è il canale. Questo è l'11 alfa. No, il 5, 15, forse dovrebbe essere il 7, prova ad essere il 7, dai che passo anch'io adesso. Ma alfa? Dovrebbe essere alfa, 27.040, per me si ascolta qualcosa, io qua l'ascolto, infatti mi sembra strano, facciamo questa prova, anche tu per qua. Campa. Sì, mi dovrà poi passiamo qua. Vabbè, ti chiamo io adesso, va, così almeno mi scendi. Siete, Fabri, la lo scuri è quella già. Ehi, gli splatter sono, splatter. Con la tana non per forza escono gli splatter. Ma sono scuri e sono. No, proprio si intende giallo. E a piglia luce. Passa, anche tu dici la stessa cosa. Oh, mi hai ascoltato? Via, chiaro chiaro. Io ti ascoltavi con un'altra modulazione. Sì, sì, lo sentivo bene. Ma no, a me no, l'altra. Eia, ho capito. L'altra sto dicendo, lo sentivo bene come se fosse nel canale. Visto che fa la cattività uscita di armonica, a me arriva 5, perfetto. Infatti stavo un po' spazzato con il cerittore, cazzo è strano. Infatti arriva proprio di armonica. Visto che lui è stato perfettino. Che vuoi fare nella vita? Diciamo che è meglio non parlare nemmeno. Ha fatto i diti. Ha fatto i diti. Se questa qui la sua linea di amatore radio, vale. Chi mi stava chiamando? Sentevo zero, chi è per Paolo? La scarico a tu, lascia perdere. Cazzo, è quello col portatile, dai. Ma con spugne mandano gli separati, cazzo. Sì. Vabbè, succede, attivati, che c'è, poi siamo a letto. Gianni. Sì. Non mando le spuglie però, vabbè. Io mi sono accorto poco fa che non era liscio, capisco. No, ma in certi canali, se tu vai anche cercando nei canali, anche sul 2, a spazi di canali che hanno delle spuglie che sono micidiali, però sono dei grandi apparati e la verità meritano di essere comprati, poi messi in piazza e dati fuoco, un paio di valore la benzina. Oh, per qua, la sera c'è. Adesso stiamo di qui, andiamo a spiegare come fa. Vedete, quello lì è un bidone, è stato toccato e non è perfetto, perché non esiste. Adesso questi apparati sono perfettamente tarati, non ci mette mai nessuno, questo spuglie non è manda sicuramente. Sicuramente è un apparato toccato e diciamo si spuglia qua. Ma succede? Mi pare che sia, adesso non ricordo bene, poco fa stavo spazzolando. Sul 52 mi pare che sia, se vai sul 52 è una cosa micidiale, e mica c'è un beneficante di canali, però i apparati non ci aiutano. Ma poi non c'è da niente di fare il canale, come manda spuglie, tipo anche manda la spuglie di 2 MHz più su, poi sentire anche altre 4 MHz, dipende che cazzo tipo di cosa c'ha, non è questo il canale, a me è successo anche che magari sta parlando di 27 e ti ascolto per dire cazzo succedevano nelle frequenze, cazzo le frequenze che non ci può entrare. Sicuramente a questi livelli vale meno di un baracchino. Cavolo, va bene, riprendete voi che io me la ripasso in quel ritiro. Ciao, buonasera, ce la riascoltiamo, ciao. Ciao, per fatto, io ci dovevo andare. Che cosa? Il bidone che mi volevi fare. Ehi, non ti preoccupare, per poi è sempre in agguato. Sempre in agguato e pronto a fare gli scherzetti, cambia, prima o poi che mi frega. Ma in effetti all'inizio mi avevo riconosciuto, infatti ho detto un attimo di bianco perché stava parlando a Fabrizio, ma poi come hai parlato è proprio fottito. Oh, ciao, aspetta, cosa che sta succedendo? Ok, vabbè, ciao Pierpaolo, il video l'ho fatto a uno che avessi che parla da un paese qui vicino, cazzo, con questa mia amica, no? In macchina, l'ho fatto un portatile così con un'antenna magnetica, perché in macchina c'è un'antenna VHF. Questa mia amica parla benissimo inglese, gli ho fatto questo bidone sul 45, cazzo che è, insomma, io dico che se lo dico, sta scuola aspetta la QSL. Sì, vabbè, non è così, diciamo, eccetera, non è ne hanno fatto uno anche da poco di bidone, HP2. Non voglio ridere, è stata una tipa che era una persona conosciuta e gli ha detto ti ricordi di me, non so che cosa, no, non conosco nessuno, io, sì che mi conosci, i maschietti dimenticano sempre gli uomini, quello che ne fanno, questo e quell'altro, e non ti rendi scusarsi, ma io veramente non mi ricordo. Ma ci ho già di mezz'ora per vedere, però volevo un'antenna, mi spostavo in macchina per avere QSD. Ah, si usa, sì, e lui mi ha detto, una cittadina vicina a Londra, e poi cazzo, ogni risata, la giocata in macchina, se ci sento la macchina, se no cazzo ti ci scavavo. Io che abbiamo fatto, facevo muovere l'antenna. Uno toccava la terra, faceva uscire per far vedere che eravamo in movimento. E facevamo il corso, facevamo gli ex. Ecco, a me. E così, facciano gli scherzi. Naturalmente non devono essere i cazzi dei cazzi dello scherzo, se è bello deve durare poco. Se per questo io ho fatto uno scherzo, ma ho messo una volta. Avevo il suo numero e gli ho telefonato, in anonimo. E gli ho detto praticamente che ero un rappresentante che passavo spesso e cose, che avevo il piacere di conoscerla, di mangiarci qualcosa insieme, se ci vuole famo conoscere, ho detto la cosa nasce cose, e ha detto va bene, se ti va possiamo anche uscire insieme, provare a uscire, ci conosciamo, dai. E gli ho dato l'appuntamento vicino al negozio nostro. E che questo scherzo qua lo sapevano tutte le commesse perché l'avevo raccontato. Quando lei è venuta l'appuntamento, ne sono usciti tutti in furia. E ti sei incascata, ti sei tirata, fino per tirare il riserva. Infatti, il sistema è un po'. Ma magari, aiuto, avanti, Antoine, cosa mi racconti di bello? Antoine, dimmi tu. Antonio si è addormentato. Tony Gaudi. E vabbè, si è addormentato, deve essere, se non stare magari è stanco. E Fabio così è. Purtroppo. E poi scaramando. No, negativo, questo qui è niente. Nulla. Facciate la data 21. No. Andare a pescare, perché capita sempre così, no? Quando c'è la giornata bella, magari domenica non mi prendere l'esca. E volevo, ho detto adesso che pulisco le carte, tutto quanto, e vale. Invece, il tempo non lo permette. Domenica c'erano questi, c'erano compiente di spiaggia, c'erano ragazzi, gente col cane, cane da pesca. Ecco, faccio anche io nella giornata. Vabbè, purtroppo delle giornate sono belle, si esce, si fa. Ma sino alle 13 che c'era la bella. Sì, si può, poi c'è nuvolato. Ho visto che c'è una crema carente, quella che c'è, un'estate, strano, ma vero. Sì, c'erano le solite mancarelle, c'erano poche ma c'erano. Anche a quelli una volta era arrivata una retta da Plattavona, vigili urbani, finanza, carabinieri, chi è? L'hanno detto già questa. Vero. Il problema è che ogni tanto la scorsa c'era la cosa finanza di affettismo, c'era una cosa capita. Oppure, non lo so, non lo sento più. No, si sta perché si è scappato uno spirato qua. E prima la domenica vi sentivo. Adesso non li so più sempre ascoltando. Aspetta che c'è la frequenza, se pure si ascoltano lì. E finisce punto 5. Vabbè, ci sono parecchi punti, aspettate, dove c'è la qua, è stato subito l'anno. Ma troppo oggi che non siamo con voi, ci siamo spostati. No, prima tanto li sentivo sempre, anche se va a palla, perché sono molto pallosi le volte a volte. Poi c'è quelli che fanno le pernacchie, lo stesso, è rompo. E ogni cosa c'ha la... c'ha le sue magagne. E non la vuoi fare. Carità di Dio. Pro carità. Oh già. Eia. 432925, li ascolti? Sì, punto 5. 432925, che ci sono sempre. C'è anche stasera. Io ascolto molto bene, via al mare si ascolta la molto bene. Strano, però deve essere veramente con la cerettura non parlano. Comunque è sempre in uso la frequenza. Magari fino a poco tempo fa li sentisco, adesso occhio toccato senza accorgere, perché mandiamo messo il lucchetto con le frequenze che avevo sintonizzato, abbiamo messo il lucchetto per spostarsi in tasti, perché a volte toccando si spostavano, abbiamo messo il lucchetto e quindi mi sembra impossibile che abbia toccato. Lo so, ma quella lì c'è anche stasera al mare per ascoltarlo. Però magari succede che, ma per ascolti tu, magari c'è silenzio. Perché poi stamattina, cioè stasera c'erano anche certo quelli di sentimento un po' per me, che sicuramente non sono reattori, mi auguro. Sì, sì. Probabilmente gente che è dispettita per qualcosa e fa questi di questi studi. Però è un sistema quello CISAR, è una cosa micidiale, perché tu ascolti tutta Italia con un cartellino, puoi parlare con tutta Italia, bellissimo, poi soprattutto quelli che stanno in macchina, è una bella compagnia. Poi il mio ricevitore è uno IAIS di quelli piccolissimo, non so se lo conosci. È piccolissimo, questo pacchetto di sigarette è anche più piccolo. Ma quello che arriva fino al 1003? Via. Benino. Ma io ne ho diversi, no, più o meno come quelli, un po' più grandi. Poi ne ho ricevitori di 20 anni fa. Guardate, io ce l'ho tutti qua, capito? Poi ne ho neanche più grande, ho fatto un pacco di sigarette. Sono piccolino, anche io in macchina, poi ho fatto l'impiantino per alimentare dalla batteria. La 12 glielo porta, sì, perché la 12 no, la 12 ho creepy. Ascolti tutto qua, sono bello, sempre, poi una bella ricezione, bella ascolto di l'altro parlante, proprio di lusso. Ma il mio ero IAISO in V5, no V5. Ma c'è adesso lì? K. C'è Roma, ho finito le batterie, adesso la maggiore di alzarmi perché ho il pacco di batterie di ricarico che sono ricaricate. La maggiore di alzarmi lo spento. Vabbè, ma lo puoi attaccare all'alimentatore, c'è un alimentatore zero? No, negativo, lo uso sempre a batteria. Sì, ma è predisposto per avere l'alimentatore, l'attacco dell'alimentatore ce l'ha? Sì, Fabrizio, ce l'ha, ecco, se ce l'ha. Solo che non ho mai attaccato, dico la fritta. C'è l'attacco dell'alimentatore, ma io uso mi trovo molto bene con le batterie ricaricabili. Una fessina, le metti a ricaricare, c'è l'altro pacco, due o tre pacchi di batterie ricaricabili, e le faccio girare sempre, metto a caricare queste e prendo le altre. Ah, vabbè, aspetta, se c'è carta e penna, così vedi se c'è questa frequenza, almeno ascolti tutti a Sardegna, mi ero un bel pronto, un bel pronto, un bel pronto. Se c'è la penna, te lo do, scusami, non ascolti tutti i radioamatori della Sardegna, senza nessun problema. Aspetta che ce l'ho io sul cassettino qua dove c'è la stazione e tengo sempre tutto se non me la mizzo a casa. Sì. Aspetta. Cazzo, siete bucato, cazzo, bu. Così è più rilassante. Io invece sono seduto nella poltroncina. Mi fate il caminetto, come dici? Oh, negativo, non è un caminetto. A stufa. Scappa. Direi che ci sta bene, pure rugata. Tu l'hai ancora così, se mi dici, lo fai. Cosa? Ancora così, se no. Cazzo, se non mi dai l'ok, cosa cazzo di gioco? Scherzata. Ma dai. E con questo link. Ma guarda, ci sarà 4-3-2-5-2-5. 4-3-2-5-2-5 no. 5 no. 4-3-2-5-25 no. No, non ce l'ho. Ecco là, se tipo c'è anche un piccolo trasponder, 145-140, capito? Non trasponder io che ci passasse, però lì ascolti tutto, arrivano anche la scala, bene, bene. Io lo utilizzo, l'ascolto quando mi sposto per lavoro. Non ho un problema, anche l'altro giorno dalla Maddalena, arrivava benissimo, forse, senza nessun problema. Sì, copre molto. Poi se fai verso Ristano, verso Cagliari, ricevi ancora meglio. Arriva molto meglio ancora da quelle zone lì. Forse perché non sia a ridosso del monte, sicuramente per quello. Kappa. Vabbè, se penso anche a Verra, e poi magari la cerchiamo. Cazzo, ce l'hai scelta per l'ascolto o cazzo non per l'ascolto? Cazzo. È bello, e poi ti muovi, ascolti bene. Adesso non ci credo, adesso beh, stiamo parlando. Poi ascolti da Ulgari, cioè tutti, senza nessun problema. Io ti ripeto, mi muovo in lungo e largo per la Sardegna e non c'è nessun problema. Kappa. Io adesso l'ho riaccesso, sta un po' tenendo. Deve essere che siamo scarico del tutto, poco fa mi sta stando. Bi. Poi te ne do un altro. Aspetta, te ne do un altro. Aspetta, cazzo, non mi trovo più là. Devo cercare a mettere sui cacchi, c'era tutta l'agenda. Aspetta, me lo prendo da qua, aspetta, te ne do un altro. Ci sei? Ehi, aspetta, te lo prendo. Guarda se ce l'hai, però vedi se ce l'hai qualche qua. Nana. 145, 625. Ma ce l'ho. Ce l'hai? Magaba. Ce l'hai? Ermia. A te. Vabbè, aspetta se vediamo qua. 437,50, 432,25. 432,025 il testo. Io non ci sono mai in radio, però ci sono. Ma non mi attivo, si può sapere. Ma qual è la fabbrica? Non me lo ricordo più. Accidenti stazionari. Ma c'è vento. Sta dicendo, hai anche la torre, c'è anche io, c'è la torre, ti stai ascoltando, andi a 5.50. Ieri mi sono. Non mi trovi, mi sono io, ma ti... Che? Dove? Ehi, dai, io te lo ascolto sempre, dai. Anche se... Aspetta, non lo forse lo cancellerà, ragazzi, come lo cancellerà? Vabbè, ti prego. Sì. Ah, tu gli vuoi l'alternata, Fabri? Ogni volta che ti sento c'è questo ronzio, forse. Vai, l'alternata ce l'hai tu, eh. No, ma dove sono le posate? Tre, dov'è? Ne ho l'alternata io. Sì, premi la portante mussa, vedete? No, negativo, c'è la croce. Buttaci via tutto, Fabri. Lo so, per quello che puoi sentire con qualche radio, mi vale la pena starci soli, capito? Ok, vabbè, tu sei bene. Io sì, ogni tanto ti incrocio, ma oramai sei talmente rincoglionito che ti suonano, te ne vengono addosso ma non te ne accorgi. Ah, ma dai, provate, ma dai, scendi, ma dove scendi al mare? Sai che suonato, quando era avanti ieri, ma che ti stai guardando il mare e ti stai incantato. Poi ho detto, bah, un altro partito. E lo vedo io, me lo fermo. Tu devi sapere che Fabrizio è romantico. Ma stavo dicendo, ma dove lo fermo al mare? Ehi, eri fuori dalla macchina, io sono suonato, tu, oh, ho detto, babà, poveretto, ti è andato bene anche questo. Fatto la fine dell'altro vicino. L'altro giorno era fatta a mora, passeggiavano con la moglie. Capito? E tu bastava fermarti, tanto passi dritto, blu. Ma quello oramai è anche cieco, oltre che essere incoglionito, quindi. Ma sicuro, adesso è un pericolo pubblico. Ma lo fanno ancora girare. Boh, vabbè. Riprendi, appunto non ricordo chi era, però anche qui vicino forse. Beh, io sono già nel doppio room di 35 anni fa, sono sempre lo stesso. E questa parte Antonio Bombolo, ci siamo sentiti già diverse volte, sì, probabile, io pensavo che oramai non ci fosse nessuno qua, invece vedo che ogni tanto sbuca qualcuno, cioè secondo me no, aria di così sul tardi normalmente non c'è mai nessuno. Vabbè, almeno qua qualcuno senti, se invece lo pensate voi siete tregati, e poi i radioamatori stavano qua a modulare, stavano qua in 27, si sono stancati di quelle frequenze là. No, già ci sono, metà, ci sono tutti sublimiche. E poi molte cose non si sentono più, ma neanche più si sentono più, perché piano piano c'è una migrazione, no? Anche lì c'è il digitale, quindi piano piano l'analogico sparirà. Lo so, però non so se è meglio in digitale o in analogico, nel caso di come ti posso dire. Aspetta, non mi sfugge la parola giusta. Come è facile? È meglio il passare digitale o continuare sempre sulla strada vecchia? Guarda, vedi con la televisione, tu la televisione adesso la vedi meglio o peggio di quando era analogica? Io penso meglio. Il suono è assolutamente stereo, tutto quanto. Certo, se ti metti col manopolone a girare il canale non senti il tubo, capito? L'unica cosa è quella. No, peggiore. Non c'è più il segnalino basso, ricevi. Ti ricevo, sì, è vero, però poco a poco, in comprensibile non c'è. Non senti, è la stessa cosa della televisione. Secondo te è meglio o peggio? Buonanotte Falche. Guarda, lo so. Io. Mi avevo chiamato per il fuoco. Vabbè, buonanotte, buon trabocco, perdona. Ciao, buonanotte. Ciao, Falche, alla prossima. Buonanotte, ci sta andando la nanna. Così fatto. Maggiore distanza ma altissima qualità. Però non è molto umana, se alludevi a quello non è umana, è una cosa che c'è o non c'è, quasi telefoni. Ma quello si dice, però è una cosa di facile la radio, secondo me. Senti i rumori, il QRM, e sentirlo come tutto, adesso lo sento 3, adesso lo sento 5, adesso lo sento quasi 0. Ma ce l'ha, lo so. senti o lo senti? Bro. In pratica non hai più rumore di fondo, non esiste più il QRM, non esiste più nulla, è una cosa, è come quando metti il CD, capito? Metti il CD nel lettore, premi e senti la musica, basta, però sotto fondo non lo senti. E quella è la differenza, quindi immagino che anche un ricevitore in HF, ma come hai idea di quante... Dicono che in HF non c'è niente, in realtà è pieno di stazioni anche broadcasting stereo, tu ti metti a 3, a 5 mega e spiccio che senti stazioni in stereofonia, però ti metti con il ricevitore ad ascoltarla e non senti assolutamente un tubo, senti un rumoraccio e basta. E quei segnali che senti magari fondo scala, quelle lì sono tutte stazioni digitali. E si sentono stereo, è come l'autoradio della macchina. Sì, sì, questo li ha ascoltati quei signori lì. Lo so, però blu. E quindi anche i radioamatori stanno operando in digitale, perché intanto li sento lì e fanno queste prove. Magari ce ne fossero qua penso che saranno uno o due, quelli che hanno la apparecchiatura. No, qua no, in continente sto dicendo, basta stare qua. Quello che sento che ci sono parecchi che tutti li sentono quando fanno le prove, quando fanno le prove, passa digitale, passa qua, passa là. Anche qua c'è il ponte che si va a Mare Urbara. Però non lo senti, cioè se tu accendi adesso, anche se ti metti l'antenna sul tetto, tu accendi non senti un po', senti segnalino piccolo piccolo, ma è inintercettabile da farsi usuale in caso di per forza qualcosa di digitale. Vabbè, quello è normale, con questi analogici non li senti. Avanti già. Ma sto sempre pensando una cosa, ma quindi ma ci siamo già fatti? Non ti capito, vorrebbe... In NPD, ma senti che ci siamo noi. Può darsi, conosci benissimo. Qualche anno fa, perché oramai è da parecchio che non lavorano più. Il cazzo, volte c'è la casa in Trattamona, hai riuscito a vedere il tipo. No, mi stai confondendo. Allora, sto sbagliando persona. Scusa, Michele. Ma gappa, sto sbagliando persona. Perché a metà se sapevo cosa sono noi parlati. Siamo tutti e due molto tranquilli. No, ti ho sentito, accidenti, perché non coincidono più gli orari, forse o... non so. Ma sarà stancato anche lui. No, non si sente più, come si diceva spesso, se niente, zero. No, più sentito. Era quando ho visto che ho già tradito. Comunque già c'è proprio già cosa ha fatto in LPD, quando c'era Vittorio eccetera, già vi siete parlati. Cappavo, e vabbè, infatti la voce era la mia nuova. Andava, sicuramente lo conosco pure, se ha fatto il CB prima. Prima, dopo, in seguito, in futuro, o sempre. Quanti anni fa? Fabri, fa le memoria, quanti anni fa? Perché si è entrato, ma che ha iniziato a fare radio. Parecchi anni. Allora lo conosco. Almeno di nominati potrò riconoscerlo. Gianni. Lo sai che questo Gianfranco? Gianfranco è amico di Paolo Falcone, era sempre insieme. Ah, è anche il gioco della calza, Gianfranco. C'è ancora vivo, sì, c'è ancora in giro. Della sorella. Abita vicino a casa di Fabrizio. Infatti Fabrizio si è innamorato di lui adesso. Barrado. Oh, finalmente sarà scelto qualcuno, era ora Fabio Auri. No, facciamo la corretta di piazzare appena di Alfonso, capito? Così almeno altri puoi fare il gioco della casa a te. Ma la colletta volete fare? Lo volevano fare. fare. Ma volevano fare CB16, volevano fare la colletta per farlo modulare, tanto non lo fa, non gliela fa comprare la sorella. Eppure ti sente, sembra strano, ma era una di quelle stazioni misteriose. Una delle poche stazioni che riusciva ad arrivare dietro Osilo, quasi senza antenna, io, e si sentiva l'uso. Per certi versi era peggio di Radio Maria, guarda. Lo senti dappertutto. Sì, sì, me lo ricordo. A te il passaggio con quella casa in alta, deve fare 5-6 metri, con un metro e mezzo di palo, questo cazzo di antenna di Mantova 1. Mi ricordo sempre passato in vacanza una settimana a Barcellona, dentro il taxi, il tipo del baracchino, mettiamo sul 9 e lui stava parlando. Arrivava in piena rossa a Barcellona, Santiago Nova. Roba che non arrivava le stazioni più forti di Sassi. Una cosa paurosa. Hai detto bene, Radio Maria. Magari in propagazione, quello lì, vabbè. Comunque, sì, era forse la telepatia, quando andavo fuori lo sentivo molto bene. Era forse la stazione che riuscivo a sentire. Ma poi che quando lui mollava la porta non c'era già più nessuno. Sei già arrivato a casa. Sai che fucciano i bucciani. Fucciano i bucciani. Quando lui mi mollava. E me non c'è più nessuno. Era lungo quel mese di maggio. E non le si bruciava, perché anche di finale non le si bruciava. Ma, infatti, lo stavo per dire, già cazzavo dei finali fatti di marmo, soprattutto non si bruciavano, ma stava ore. Io lo sapete che c'è il cimitero di Falcone. Ogni diavolo lo faceva, però. Ma adesso non cazzo geniale, usciva con la potenza dell'apparato, 7-8 base, con la voce di multimore, ma arrivava tutto, è una cosa paurosa, ripeto, neanche gente cazzo che usciva con un puntino, ma nulla, è una cosa paurosa, il punto giusto è basta. Ma era uscito un sito su Falcone, lo sapevo già. No, addirittura. L'avevano fatta lui, non so se ti ricordi, ma l'avevano fatto la partita di Cipri di Polotto, la sua fuori di Sassi. E lui l'avevano messo come arbitro, e hanno fatto il gavettone di schiuma dal ballo, si vede solo il naso. Io poi non l'ho mai conosciuto neanche, quindi non so neanche chi sia, sapevo dove era, come casa, infatti mi hanno pigliato sempre, sto capito. Deve essere una zona proprio, ho baciata la fortuna per quanto passa era, porca miseria, arrivava da tutte le parti. Quando non sentivi nessuno sentivi allucinante. Comunque qua intorno ho visto che ce ne sono moltissime di antenne di Mantova. E sono molte per lui che ci sono spezzate, forse l'ultimo vento. No, qua vicino a Bretella non è spezzata, rifai. Non è cambiata in due. Sì, sì. Rimaneva appinto lui la metà della sera, poi questo non c'è più il pezzo. Non è caduto sul pezzo, oppure il padrone l'ha fatta fuori, non lo so. Il fulmine è buttata, di luna rossa quella lì. Antenna di luna rossa, una rossa. Caduto il fulmine, è entrato in casa e l'ha bruciata anche gli apparecchi. Ma è entrato la coda del fulmine. Questo fulmine a me mi ha fatto. Probabilmente quel boato che hanno sentito in tutta la casa lì era una coda, ha fatto un danno micidiale. A me mi ha buttato un ricevitore, un bel po' di casino ha fatto. Lui, tante volte quando si dice staccare le antenne, quando ci sono i fumi, noi non andiamo a retta, a volte e si futti. Ma comunque, la luna rossa mi ha mandato giù l'antenna, ha fatto danno anche sul tetto, insomma. Ecco, la luna rossa era un'antenna ben piazzata e non era è stata la cavolica. Sì, quello sempre più avanti, proprio sulla Bretella, ci sono due, una è la metà, una mantova, una metà, quella di luna rossa, non è una mantova. Però l'altra invece è proprio lì sulla Bretella, mi sarà io, sarà tu. questa è l'altra alta, l'altra è di una persona. Ma quella più vicina alla strada, cioè a metà. Ma guarda, sì, cioè, si è rotta. È stata montata bene. No, si è spezzata, perché io mi avevo visto che la metà di fronte era più dolore. Tu è sparito, è caduto sul tetto, oppure il padrone l'ha sotto, non so. Povera, vedi se ne vada. Poi lo sai cosa succede? Quelle lì si rompono perché non sono state montate bene dall'inizio. Ah, sicuramente, aspetta, si va avanti con la voce, io non l'ho mai vista. Guarda, guarda quella che c'è lì al chilometro. Se ne farà domani, ma chi ce l'ha piazzata davvero? Parole. Ma tutti i punti, come fa in quella casa grigia? Affrontare il fornitore, guarda Fabri. Come? E affrontare il fornitore di Unita, c'è con l'antenna. Ah, sì, e quella si cazzo, ma questa vai. C'è un palo noce, c'è un palo grosso. Tu puoi vedere acqua, perché cazzo è. Se sono attirato, se niente, poi la manco così. Cazzo, per buttarla quella, devi buttare a casa. Perché è stata regolarte, se la porta era un maestro. I radiali ci già tutte e quattro, ogni tanto i cibizzomete, gli uccellini ci fanno, li piegano anche, lo stilo è tutto intero, è come nuova. Lo sai cosa è quella pensata per una raffa pure nella tomba delle scale, a me sono messo su me colori, si è messo un pulice a 2 metri a 3, è grosso, tutto, se tu avevo ci vuoi vedi la paura, manco si muove. Che si sta regolando, no, non lo so chi è quello, ci chiede uno che è fuori, mi sembra che è capitato di sentirlo anche sul pagazzino. Non lo so, tu non l'hai visto tu quelle antenne che sono lì vicino, quelle antenne vicino alla locomotiva, anche a tutte le altre Africa, ogni tanto cazzo gli si piegano in due. Alla locomotiva? Tutta. Mi danno la battuta. Infatti ogni tanto c'è un colpo di vento che mi trovo un pezzo di antenna sul secolo. Ma no, ma è quello. No, è che qua c'è la rifiuta a casa, cazzo che c'è tutte quelle antenne sul petto. C'è un'antenna nera, sembrava una canna a testa. Ah, ma quella lì c'ha quella casa con 7-8 antenne. Ah, guarda, sembra sta roba militare, hai visto che c'è anche una cosa satellitare strana, poi altre antenne piccole, tutte satellitari che non si vedono. Quello guarda, oh, guarda che si parola è Ghini. Ah, io sono con una stazione militare quella, il servizio. Per me se penso che si è cacciato la strada, proprio, ma se vuole deve essere messo male il padrone. Ma no, magari è messo male, ma l'antenna è una maledizione, sicuro che sta messo bene. Ma dove rimane, Fabri, che domani vado a vederlo? Ma dove rimane questo qua? Tu attenti, e quante volte ci sei passato? Come ti sono abudibuti, no? Sì, adesso entra la veloce, fai il cubo d'assise e poi guarda in alto di fronte a te. Ah, sono quasi dove c'è il laboratorio delle analisi. Un po' prima. Ah, ho capito, è dove stai dicendo. Sì, mi pare che l'ho già intravista, c'è un fotografo che va lì. Esatto, le sue antenne a cazzo. Ma il mattamento deve essere messo in servizio questo qua. Ora sono stato la casa ma i carabinieri lì, ho qualche succursale. Non so. Ma anch'io mi sembra un'antenna che non so. Non era di amatoriale, della 27. E qualche altra frequenza. Ma secondo me sono del KGB. No, sono tipiche antenne che si sono militari. Se la vede da dietro, l'antenna sotto c'ha i tipici accordatori che utilizzano loro, no? Quelle altre sono cortissime, cosa che radioamatori non sanno, che sono per frequenze particolari evidentemente. Una è corta, proprio c'ha una specie di disco sotto che quella sicuramente è per satelliti, poi c'è anche una direttiva montata in cielo, quindi non è roba non è roba amatoriale. A meno che sia qualche esaltato, tipo quello che ci ha prodotto oggi, che si veste come il Rambo. Pare il Rambo, si lo vede, si veste tutta venita, scarpe militari, tutto militare, non ha mai fatto militare di mestiere. Allora, buonanotte a tutti, dai, Gianfranco, Fabrizio, a te Gianni, ciao ciao, buonanotte, ce la risentiamo domani con le brusche, ciao ciao, pure lì per me, e vado a 744. Ciao Antonio, buonanotte, buon lavoro, dai, ci sentiamo, quanti fa? Sì, ciao Antonio, buonanotte, stammi bene. Ok, buonanotte, non si sposa. E tu Fabio invece non ti metterai niente, se fai un qualche antenne per cappucciarti, sì. Ok, adesso ho piazzato un calicetto in campagna mia, una piccola direttiva che c'era in un garage. E mi sono divertendo a fare qualche DX, come vecchi tempi. Ma c'è ancora qualcuno? A voglia. Ma ci so. Con un TL922 modificato, già va bene. Ma in quale frequenza? In quale frequenza? 27, io ho questo delle altre parti. Ah, 27. E dove stai, con chi stai parlando? Dove stai tu? Italiano? No, dico con chi? Con la Francia, con la Spagna, cosa ti posso dire? Con quale paese? Ecco, che capita? Allora, vedi, la preparazione. E vabbè, dai, dico, più lontano che sei arrivato con la direttiva. Ah, mi sai, ne ho anche con l'America, perché facevo 27 normalmente. Tu dove sono io, sono tutto aperto, non c'è stato, non c'è sull'altro, poi capito, non c'è un problema, non può aspettare. Appaga, meglio così, poi in campagna per spedire tutti come vuoi, se non c'è gente a troppo. Ah, c'è un po' di vicino che non sono stato, ma non c'è problema su quello. Ed è mentira addirittura. No, una da 5 e una ai 20 dei 20, una per 40, per i 20, però l'ho visto che va bene anche i 27. Se ti fa dai 20 ai 40, sì. No, ma adesso la riesco a calcolare bene i 27 da... E poi c'è una direttiva, una 4 dei 20 per la 27, proprio fatta sotto quattro cosa lì. Scusate, una volta sono, c'è ancora imbarazza di garage. Perché non reggo? No, perché la volta non sei stavo usando queste qua. Sì, tu vanno usato una volta solo per provarla. E poi non ti usate. Il capo. Vabbè, dammela. Faccio la contesina. C'è anche il rottore, c'è tutto quanto. Ma fa un faro con robusto, il rottore. Va benino, tutto fa bene veramente. Tutto la gira presa che c'è 16 stecchini. Che po' la mano, va. Sì, vabbè, è proprio di lusso. Però quella la faceva, la 4 elementi, poi anche l'altro elementi faceva di quello modello vecchio. Già fare. Io non intendo di queste antenne che c'è Fabrizio qua. Ho visto sempre con questa antenna a Cittadino, sempre con questa... con questa alternata, non so se conosciuto mai che abbia messo un qualche chiesa, un qualche cosa più in alto di 5 metri, e così, vabbè, io mi accontento della mia mini Grand Plain, però tranquillo. Ah, vabbè. No, io diciamo che ho 5 metri di palo, però sono su un palazzo di 6 piani, quindi va anche bene. Quando è così sì. Io al massimo era basso, poi giusto il quartiere faccio. No, e sul tetto l'hai messo? Sì, sul tetto, ma l'ha messa così. Vedete un'antenna Siria, Siria e comincia a rimodulare, seriamente. Ma non c'è la voglia, capito? Non c'è più la voglia, vero Fabri? Eia, non c'è più la voglia. Capite, poi lui da qua non c'è più progresso, no? Non si trova più bene questa frequenza. Caffa. Vabbè. Io non so in che tipo di frequenza entra, però io sono facendo WL anche, faccio ascolto sul canale di amatoriali, ti dirò che non mi entusiasma molto come impostano i loro PSO, dicono più volte nominativo che le parole. Vabbè, quello è un obbligo. Solo che ti dicono solo quelli e basta. Sì, è vero, cosa ti rincuneva. È molto più simpatico ascoltare Vic di Sassa e di Fabrica che di Cantonale, per dire. No, poi c'è il socio di Serenatore, come di Armonica, proprio per carità. Io ho sentito... Ho sentito questo qua che stava chiedendo un controllo, un nuvolo di amatore, l'anche rettore. E dice, posso avere un controllo di Radio Santiago? Ho detto che non era il 27, che se doveva darli il controllo lo dovevano dare loro, non a chiederlo, che si chiede solo il 27, non di... Ma è una cazzata, Ma c'è la gente che va la puttana sotto al naso. Ma dove? Ma cazzata? No, è un mic nazionale. Vabbè, è un po' buffo chiedere controllo su un mic nazionale. Se chiedere un controllo in termini di modulazione, ma non certo di segnale, perché essendo il tuo contatto lo chiamo segnale tonto. Ma infatti, il segnale non è il tuo, quello è ritrasmesso, messo. E vabbè, ma siccome era nuovo, si poteva anche passarci sopra, E tu questi, molti di questi qua, che sono apparati seri, e poi siete di armonica, le immagini, ho già. E vabbè, ma tante volte dipende perché attaccano i diavoli grossi, No, non avevo neanche attaccato, tranquillo. Sempre arrivato a Santiago 7, sapevo 20 cali dopo, preso un po', tutto perfetto, sembrava lì. Io non me ne intendo, però secondo me l'armonica può dipendere anche dall'apparato che si usa per ascoltare, anzi all'80% penso che sia proprio quello, perché spesso sono le medie frequenze, i filtri e quelle cose lì che non sono molto performanti su certi apparecchietti, e quindi li senti ripetuti 30-40 volte man mano che fai, non mi dico. Comunque tu, Fabrizio ne sa molto, quindi fidiamoci di lui. Fabrizio ha le orecchie che si sono fatte tipo quelle che non le ha fatte, le ha ascoltate. Signore di armonica, non è questione di eccezione, è questione di chi sta trasmettendo. Come ha fatto? Un amatoriale che è un bidone, sono 5 persone che ascoltano lo stesso segnale, quindi non è questo problema di eccezione, lo hai detto tu. Sarà così. Può darsi che abbia attaccato qualche chilo, fa più di troppo magari. Allora è chiaro che lo senti. No, negativo, non ne aveva chiamato niente. Però se tu senti una determinata frequenza, senti bene, sette, come se fosse su quel canale lì, è poi l'armonica, l'armonica alla grande, capito? E poi l'ascolti, lo ascolti in un apparato serio, è lo stesso, l'ascolta altri quattro e sentono lo stesso, quindi non penso che siano che tutti i ricevitori sono dei bidoni. Mia Falcone, mi la sapevo io che c'era, visto? Via Falcone, vieni avanti Falcone. Questo ha fatto visto. Ebbe visto. No, non entra qua adesso, adesso. Vediamo attore, non entra più. Prima stavano in CD, quando passano di là, non ti cagano più. Perché sennò poi li criticano. Vittorio. Così è. Vabbè, non ho accettato provocativo. No, proprio Vittorio non si può dire perché... Malgrado fosse Salvatore entrava a salutare se la no. Scherzavamo naturalmente. Cappa, però è una linea che se uno è un radioamatore o è cinico, per lo meno potrebbe fare tutti e due. Ma queste categorie strane. Non ho mai capito. Che poi hanno tutti e due la passione per la radio, sono due tipi di categorie che diciamo che una delle amate è superiore perché hanno il patentino. Ma è solo quello. Perché poi la passione, se sono tre persone che ci credono, ce l'hanno sia l'uno che l'altro per la radio. Ma poi se una volta sei radioamatore sei perfetto, capito? Prima di ascoltare in certe frequenze e sono peggio dei CB. In effetti sono link anche di pochi giorni fa sul link di Sassa li stavano disturbando. E non è bello, eh. A parte lascia stare lì che magari, ma anche tra loro, ma lì che magari ci può essere il tipo che veramente un CB non è un relatore ma non sarebbe male. Ma adesso parla della comunicazione tra i relatori che fanno pena a sentirli, capito? Ho capito. C'è la fanno di cose di macello. Come altre cose. Ma che nel dimensionale c'era uno che faceva le pernacche, faceva il maiale. Ehi, ma quello ti ripeto, potrebbe essere veramente una lì fuori e mettere importante, però nelle comunicazioni tra loro, con le sigle, tutto quanto, cazzo sopravvivarsi, cazzo, a livello di peggio del canale 5 dei canonesi. Ma che vuoi ti dimentichi? Diciamo che ognuno te lo dice un po' dentro, l'ho sempre detto io, se uno ha avuto l'educazione l'ha seguita, se non l'ha avuta cosa segue, lo va poi la mamma che si chiama la ducca di dietro, è normale che si comporti così, no? Avanti, Gianfra. Vabbè, cose che capitano. A pensare che anche Fabrizio voleva entrare in quella famiglia e anche lui sarebbe diventato di quelli sicuramente. Fenali non ci avrebbe più degnato di una parola, vero Fabrizio? No, ragazzi, non è una stessa. Vedi? Si cantava il nome quel vicino lì anche tu, non c'è capito nessuno. No, ma credo che sia passato, ma si è diventato ISZ0. Sì. Il morto. Perché? L'ha sentito? Ha cambiato la sigla, adesso è ISZ0. No, ho pensato che sì. cose. E come parla? Un po' ciò. Capite, gli esegge uno o doppio. E chi è questo qua? Non diciamo nomi nativi comunque. No, non so, non ti sentito, sarà morto blu. Il povero blu. Vabbè. E così. Là, adesso mi sposto. Ci sentiamo nel prossimo, ciao Gianfranco, ciao Gianni, buonanotte, quelli che si permette. Dai, chiudo anch'io, io chiudo, dai. Faccio correnti che domani mi aspetta una lunga giornata di vacanza. Adesso Gianfranco, in pensione, la salute. Sicuramente sì, oramai. Oramai. Comunque, adesso me ne sono accorto, chissà quante maledizioni ti stanno mandando Fabri, anche a me, ma normalmente io sono poco potente. Non lo sai perché? Perché? Perché se sei un partento e ascolti, sotto si sentono dei segnali track, track, track, track, che sono quel cavolo di tastiere di computer, che sono su questi canali alfa. Quindi quando parliamo praticamente a molta gente noi stiamo imballando la tastiera. Ma, cioè, ma cos'è il mouse? Cos'è che stai dicendo? Non ti ho capito già fra. Le tastiere wireless, sei anche il mouse, no? Senza fili. Sono sulla 27, su questi canali alfa. Quindi quando parliamo noi, per quanto soldi siano quei ricevitori lì, che hanno attaccati al USB, reti, cosa le incolli, il mouse o la tastiera? Anche i cancelli elettronici? No, i cancelli no, i cancelli sono a, quanto erano, 40, o anzi a 4,33 giù di, le tastiere sì, dei computer. Boh, Adriano mi ha detto che ne aveva fatto partire uno di cancelli. Quello perché stava uscendo male dal monitor. Comunque, già parlo. Comunque le macchinette sì, no? Le macchinette autocomandate sono 27 penso, perché come mettevano la porta te le faceva andare in casino. Sì. Sì, ma adesso ci sono quei ricevitori lì a logica 4, stati. Neanche sotto quelli degli aerei, degli costi, neanche se ci metti un kilowatt di costi. Quindi sono anche raccomandi di tecnologia Spectrum. Vabbè, Fabri, ma dove stai andando? A parlare da qualche altra parte, non si è visto. E tradiamo di come sono. No, cioè, infatti io mi sento spesso qua, adesso c'è qualcuno vicino a casa, perché mi arriva a segnare un po' forte. E sono, mi sembra, sotto 80, comunque sui super capocopra qua. E quindi come tutti ogni tanto ho capito, chissà chi te va a questi sono gli animatori. No, secondo lo sa che sono, perché uno non lo sa che sono su quella frequenza, anche la pensa con le condizioni. E allora magari mi domani si chiama ogni volta il tecnico, ma ho venduto la tastiera, non funziona, e quello vabbè adesso andiamo a vedere, adesso funziona 50 euro, poi di nuovo la prossima settimana sono d'accordo. Alleluia. Perché già fa, quindi cioè prendono la portata di quei problemi, non però. Se quello sopra di casa voglia che ne infrigge le blocchi la tastiera, no? Ancora se si è spostato di frequenza, sono molto sordi perché funzionano di fatto due metri, ma se poco mi ci vai sopra sul canale gliela inchiudi. Io infatti ho dovuto togliere tutto di quella fare perché qualunque canale andavi si impallava di brutto. Capito. Andare là, ci sentiamo Gianfra, va bene. Ciao Gianfra, buonanotte, sarà bravo, e non lavorai troppo. Già non lavoriamo, sì. Ciao Fabri, buonanotte. Buonanotte anche a Gianni. E niente, mi ha ascoltato la risoluzione. Anche io me ne vado a vedere un film da lavoro che sta iniziando. Ciao. Ciao.